Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Non vogliamo parlare di quello che è uno scudetto, perché tutti quanti inizialmente non ci hanno messo per la corsa per lo scudetto, e a me va benissimo, continuo a essere contento di questo, però vedo una squadra in crescita con grandissima convinzione. Vogliamo rimanere, cercare di rimanere più possibile attaccati al carro delle prime squadre. Lo faremo con questa mentalità, con questa determinazione. Mancano 25 partite e 75 punti a disposizione. Quindi o si sta qui a parlare d'aria fritta o si pensa alle prossime partite. È un percorso che finirà fra 7 mesi. Quindi sappiamo che abbiamo a che fare contro squadre forti. Ci sono 5 squadre che hanno una media punti insostenibile. Torrera, pallina in mezzo, la sfiora Zapata. Il controcross, porta volta a rete. Il 3-0 della Sampdoria con Ferrari. Eh sì, li abbiamo sentiti di Francesco e Sarri ieri sera, che parlavano con un po' di pudore di scudetto, di giornate che mancano, di punti, di medie folli, di tutto giusto, tutto che resta assolutamente identico, anche adesso che sappiamo che la Juventus ha una media un po' meno folle e qualche problema in più. Ci sono mille pensieri da fare su questo Juventus-Sampdoria 3-2, o meglio, Sampdoria-Juventus 3-2, Zapata, Torreira, Ferrari nella prima mezz'ora del secondo tempo, poi nel finale Higuain e Dybala, e anche questo serve per accentuare rammarico, dibattito, magari anche qualche processo sulle scelte di Allegri. Allora, tutti convocati, 800 24 00 24, prenotatevi da qui alle ore 19, perché voglio sapere cosa ne pensate di questa Juventus che continua a non correggere i suoi errori in questa stagione. Questo è un dato oramai di fatto acquisito. Potete anche scriverci 349-238-6666, sms, whatsapp. Ciao Carlo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Vi dico subito che parliamo anche dei clamorosi sviluppi. Abbiamo tempo fino alle 19, sta succedendo qualcosa di importante sul versante federale. Mi fate sentire per cortesia, chiedo a Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani, da vecchio di ieri. La debacle è tecnica. Chi ha scelto però l'allenatore? L'ho scelto io l'allenatore. Però 4 giorni che non dormo. Dorme male, insomma. Te la vedo un po' emozionata. Si dorme e si sveglia. C'ha gli occhi lucidi. No. Ecco, sta succedendo qualcosa. Ieri questa intervista anticipata dalle Iene, la vedremo stasera. Stasera sentiremo parlare Malagò, domani Tavecchio potrebbe dimettersi. Voglio sapere cosa ne pensate. 800 24 00 24. Però direi che dobbiamo partire dal campionato. Saluto anche Massimo Caputi. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Ciao, buonasera. Mi pare che la notizia di Tavecchio magari arriverà domani. Credo che la notizia di oggi sia quella che abbiamo anticipato, cioè né Sarri né Di Francesco ieri potevano sapere che oggi la Juve sarebbe caduta anche fragorosamente a Marassi con la Sampdoria. Che impressione ti ha fatto, Massimo? Beh, diciamo che i gol nel finale rendono... rimane il fatto che la sconfitta è clamorosa, ma di proporzioni più accettabili. Un conto è perdere 3-0, un conto è perdere 3-2, non cambia la sostanza. È una Juve chiaramente al di sotto di quelle che sono le aspettative, che conferma a mio modesto avviso la straordinaria potenzialità comunque offensiva e anche nei cambi che ha Allegri, considerando chi gioca, chi sta in panchina e chi subentra. Ma quest'anno, ahimè, c'è una fragilità difensiva che vedo che con fatica riesce ad avere un argine da parte di Allegri. C'è il logoramento di alcuni giocatori importanti e di pilastri, e altrettanto i sostituti probabilmente non sono all'altezza. Io credo che questo sia il grande problema di fondo della Juve. Allora, diamo qualche numero. La Juve con i 3 gol di oggi ha incassato in campionato 14 gol nelle prime 13 giornate, sono quindi tanti, è sopra tanti. Quella soglia psicologica del gol a partita, ma secondo me c'è un altro numero che è ancora più impressionante. E cioè la Juventus in questa stagione ha giocato 18 partite, compresa la Supercoppa con la Lazio, compreso le prime 4 del girone contro Barcellona, Sporting Lisbona e Olympiacos, 2/3 delle volte in cui è scesa in campo, 12 volte su 18 ha incassato almeno un gol. quasi sempre fuori casa, ma non solo. Tanta roba, e questo eh? Significa che il muro non esiste più, ma no, questo potrebbe no. anche essere fisiologico, ma soprattutto che Allegri non ci ha ancora capito nulla su come ovviare tatticamente al passare del tempo che gli ha tolto i meravigliosi protagonisti di questi sei anni di scudetto. Almeno questa, Massimo, è la mia impressione. Vorrei sapere anche, non so se, aspetta Massimo, vorrei sapere anche se non so se hai, Giovanni, date a disposizione, non credo, però quante volte la Juventus è cambiata? Secondo me Allegri ancora non ha trovato la, lo schieramento tipo, la formazione base, mettetela, giratela come volete, Massimo. No, io credo che questa sia proprio la madre di tutti i problemi della Juventus, ma un problema però che discende dal mercato, perché diciamo che la Juventus ha fatto grandi colpi, ma li ha fatti tutti quanti in chiave offensiva e a centrocampo, se vogliamo, dove sapeva che doveva puntellare alcune situazioni, però non c'è stato un vero ricambio in difesa, considerando il declino inevitabile dato dall'anagrafica di alcuni giocatori, in fin dei conti qui nasce il problema, ma è una filosofia. Cioè, io credo che la Juventus volutamente abbia puntato alla parte dell'attacco senza curare la difesa. Non so se sia stata una scelta, perché comunque convinti che non ci sarebbe stato questo declino, però sta di fatto che lo dice il mercato oltre che il campo. E per quello che riguarda Allegri, non è facile trovare delle soluzioni a meno che non rinunci a un attaccante, ma con tutti quelli che ha come fa? Però ad esempio anche il 4-3-3, perché di questo stiamo parlando, no Massimo? Anche il 4-3-3 in realtà, quando si è visto in questa stagione, non è che abbia fatto impazzire, il che fa ragionare. Allora, stanno arrivando tanti messaggi: 349-238-6666. Andrea da Washington, che scrive: il problema è il centrocampo. Altri che dicono la Juve non rimane la Coppa Italia, il ciclo è finito. Io però vi invito alla prudenza, vi invito alla prudenza prima di seppellire il ciclo e anche solo questa stagione della Juventus. Facciamo tutti un applauso ovviamente alla Sampdoria di Giampaolo, perché se lo merita, è assolutamente per distacco la squadra rivelazione di questa stagione. Stiamo aspettando le parole in diretta di Massimiliano Allegri a Premium Sport. Chiedo un minuto di pazienza a Massimo Caputi, ma prendiamo insieme Paola da Milano, 800-24-00-24. Paola, dai. Sì, buongiorno, sono Paola da Milano. Ciao. Ma tifosa della Sampdoria. Vai. Ci conosciamo, l'impressione. Assolutamente sì, e sono molto contenta, i miei ragazzi sono stati bravissimi e soprattutto secondo me Allegri ha peccato un po' di presunzione, perché ha fatto abbastanza turnover contro una squadra che in casa era imbattuta e che comunque gioca a mio parere un ottimo calcio, che poi al Barcellona forse non è neanche la partita della Champions che la Juve deve vincere. Sì, io non sono del tutto d'accordo, anche dando un'occhiata al calendario. La Juve aveva bisogno, poi certo non a prezzo di perdere a Marassi, ma avrebbe bisogno di risolvere la questione Champions prima dell'ultima giornata, un po' perché nell'ultima rischi Istanbul evoca dei ricordi, un po' perché quella partita lì arriva a cavallo della partita con l'Inter, e quindi posso anche capire eventualmente la volontà di Allegri di chiuderla prima. Io voglio chiedere a Massimo Caputi se a questo punto anche la Roma è da scudetto. Il Napoli lo diamo per assodato, anzi in questo momento è certamente la favorita. E la Roma che fa? La Roma, diciamo, prova a candidarsi nonostante lo scetticismo iniziale, nonostante ancora comunque sia indietro, però indubbiamente il cammino della squadra di Di Francesco è un cammino importante. Direi, oltre al cammino fatto di risultati, c'è proprio la crescita della squadra che va di pari passo. Non sono risultati frutto del caso, ma frutto di una crescita. Quindi la Roma si sta autocandidando partita dopo partita. Io credo che sarà veramente da qui fino a Natale, fino a quando si giocherà la fine dell'anno, un campionato che ci regalerà notevoli emozioni e anche cambi possibili, perché ci sono, la Juventus dovrà affrontare gli scontri diretti, cioè Napoli, Roma, Inter. Quindi diciamo che, se è vero che li affronta la Juve, li affrontano anche le altre avversarie, quindi si toglieranno punti a vicenda. Quello che sorprende della Juve, cioè noi in questi sei anni dove la Juventus ha dominato e ha vinto il campionato, dov'era la forza della Juve? Che la Juve non gli faceva i gol, gliene bastava uno e vinceva le partite. Qui la Juve spesso e volentieri rincorre, addirittura anche il Benevento in casa rincorso, cioè quindi c'è evidente un problema alla radice, ed è un problema non di poco conto in un campionato come il nostro. Allora, abbiamo il traffico, io ringrazio Massimo Caputi. Ciao, ciao Massimo, grazie. Grazie a voi, ciao. Sta per arrivare Allegri ai microfoni di Mediaset Premium e vi annuncio che nel 3-2 ci sarà anche da discutere di Moviola. Sul terzo gol della Sampdoria c'è una spinta che a me pare evidente di Zapata. Sentiremo se Allegri avrà qualcosa da dire. C'è già Alessandro dalla provincia di Milano che ci sta aspettando. Allora facciamo così, andiamo in traffico e rientriamo con le parole di Allegri. Tutti convocati. Tutti convocati. Assolutamente gli episodi, posso solamente dire che è stata una partita giocata bene nel primo tempo, molto bene la Juventus, però queste partite, se il primo tempo finisce 0-0, diciamo che ci sono stati dei demeriti nostri in fase di realizzativa come scelta. Poi il primo tiro della Sampdoria prende il gol, sono svirgolata. Il calcio purtroppo è questo, e quindi bisogna analizzare quelle che le cose che non sono andate, e secondo me bisogna avere un pochino più di pazienza e non perdere lucidità dopo l'1-0, quando abbiamo cercato subito di andare a acchiappare questa partita, quando invece mancavano ancora 40 minuti e avevamo tutto il tempo necessario per agguantarla e ribaltarla. Poi i gol sono: uno svirgola la palla rimane in aria, il terzo su una punizione laterale. Dal possibile 1-1 siamo passati al 2-0. Questo è il calcio, però a noi, siccome può capitare di andare sotto, non bisogna prestare il fianco all'avversario, vuol dire avere un po' più di pazienza, non innervosirci e affrettare le giocate, solo questo. Allora, questa è la prima lettura in diretta di Massimiliano Allegri ai microfoni di Premium Sport. Leggo un po' di messaggi che stanno arrivando. Per fortuna la Juventus, ci sono 4 posti in Champions da quest'anno. Questo è uno juventino stufo di Allegri, così si firma. Poi ancora Martino: quando parlate di mercato della Juventus dimenticate Ovedes, che deve ancora esordire. Però secondo me questo non è un alibi, non è una scusante, non è un attenuante, ma semmai è un punto dell'accusa. Poi ancora segnala questo amico che Buffon oggi non giocava Szczęsny, e quindi il suo messaggio è sbagliato. Un altro scrive: adesso la Juventus deve svegliarsi, altrimenti il Barcellona giocherà a tennis. Poi ancora: per la proprietà transitiva, se la Roma può correre per lo scudetto, allora può farlo anche la Sampdoria. Da oggi ufficialmente l'Eister italiano. Non lo so, secondo me la Sampdoria può chiedere, può correre per l'Europa League, ed è già tanta roba. Saluto Massimo Zampini. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Però prima di raccogliere le tue lacrime vado da Alessandro dalla provincia di Milano. Alessandro, buon pomeriggio a tutti. Vai. Allora, due considerazioni. La prima: mi piacciono tutti i tifosi bianconeri come me che stanno facendo il funerale di Allegri e della squadra alla giornata numero 13, se non sbaglio, con 14 gol subiti. La verità forse l'hai detta te prima, Giovanni, nel senso che non ha ancora trovato l'amalgama della squadra, e io sono convinto che nel momento in cui Ovedes riuscirà a farsi vedere al centro della difesa, lui cambierà il modulo della squadra e giocherà con un 4-3-2-1, perché in questo momento due centrocampisti da soli non sono presentabili, perché Khedira o fa gol o passeggia in mezzo al campo. Si può anche fare il 4-3-2-1, poi però bisogna pigliare l'elenco in attacco per farli ruotare. Allora, Massimo Zampini, ciao Massimo. Volevo sapere qual è la tua opinione a caldo. È molto complicata oggi, perché personalmente ho visto una prima ora buona della Juve, so che pare difficile, ma l'ho vista molto bene in un campo complicato, e dopo invece molto male, nel senso che tu prendi il gol, ma mai nessuno come la Juve ci ha insegnato negli anni come prendere un gol a mezz'ora alla fine, non voglia dire che sia finita. E invece la Juve c'ha una mezza reazione in contropiede, ma poca roba, casuale, ma mentre contro uno, e per il resto prende il secondo, sul terzo addirittura si fermano a protestare mentre si gioca. Mi preoccupa questo molto più del gioco, della forma, della squadra, gente che considera la stagione finita, Allegri. Sinceramente non mi è piaciuto molto un po' essersi disuniti completamente dopo il gol, aver mollato non è roba da Juve. No, per il resto io ma neanche continuare a prendere i gol. Non è roba da Juve. Cosa, ragazzi, perdonami Massimo, perché perché siamo comunque arrivati quasi alla fine di novembre ed è evidente che continua a mancare qualcosa anche nella disgraziata inizio di stagione 2015. Arrivati a fine ottobre, Allegri, un po' con l'aiuto dello spogliatoio, poi la quadratura del cerchio l'aveva trovata. Però, però Massimo, può anche essere vero che è finito un ciclo, perché è fisiologico, vale per la nazionale, vale per la Juventus, in parte sono anche gli stessi giocatori, soprattutto in difesa, quindi va bene tutto, no, è tutto corretto. Però non può essere finito un ciclo quando hai speso più di 100 milioni sul mercato cambiando tanta squadra. Vuol dire che hai sbagliato anche a interpretare come evitare la fine di un ciclo. Ma io questo sullo spendere non sono mai d'accordo, che compri e vendi Bonucci, compri e vendi Pogba, compri e vendi Morata, ogni anno diciamo che la Juve ha speso 200 milioni, poi non è esattamente così. No, secondo me il ciclo finisce non tanto perché non sei forte come giocatori, oggi sono entrati Matuidi, Douglas Costa e Dybala, roba pazzesca a livello europeo, mondiale, è che, lo dico io a Carlo ogni anno, lo dico nella trasmissione, che credo che sia l'anno giusto in cui non si vinca, prima o poi succede, è fisiologico, anche se sei apparentemente il più forte così, può succedere, però ora vediamo, è un mese di scontri diretti, potresti tra virgolette crollare, potresti anche riavvicinarti, riprenderti, è difficile dire come andrà. Sì, è vero che oggi entra tanta qualità dalla panchina, però ripeto, ad oggi l'apporto del mercato della Juventus è molto molto molto limitato, Massimo, di questo si può parlare, sì. Perché poi è vero che tu vendi come Pogba, no? E compri Higuain e Pjanic, vendi Bonucci e compri gli altri. Però è anche vero che quando gli altri sbagliano il mercato si fanno le critiche e si sottolinea. Mi pare che ad oggi, e siamo ormai a un terzo di stagione, qualcosina si possa dire. Sì, no, c'è due, al momento sì, così. Io personalmente poi ho visto oggi Douglas Costa entrare e nel contesto che c'era sembrava un misto tra Messi e Cristiano Ronaldo, il che magari è una colpa in più, perché magari potresti farlo giocare di più. Dico, in questo momento oggi è molto difficile, perché ripeto, hai perso 3-0, a momenti perdevi 4-0 in goleada e quindi non puoi parlare. D'altra parte, io ripeto, potenzialità ne vedo, sinceramente, ne continuo a vedere, poi saremo a vedere che succede, però. Allora, un amico scrive, Fabrizio, storicamente quando la Juve non gira anche la nazionale non fa risultato, che dite? Che secondo me non c'entra nulla, lo dico sinceramente, perché altrimenti la nazionale che aveva l'ossatura della Juventus arrivata due volte in tre anni alla finale di Champions non avrebbe avuto problemi ad andare al mondiale, quindi secondo me i due discorsi sono completamente staccati. Invece mi piace anche capire che cosa ne pensate di Dybala lasciato in panchina, terza volta, sempre dopo le soste dall'inizio del campionato, terza volta che viene inserito, seconda partita che la Juve perde, perché aveva già perso contro la Lazio, oggi è entrato, comunque il suo nell'ultima mezz'ora l'ha fatto, non lo so Massimo, cioè, gli altri che tornano dall'Argentina giocano, mi risulta. È molto bizzarro lasciare fuori Dybala, ragazzi, è molto no, molto bizzarro, perché per me Dybala gioca sempre, argentino non argentina, e poi vediamo gli altri. Ma infatti quando io ho detto che c'è tanta potenzialità ho anche detto il contrario, ho detto tu una super panchina e va bene, poi c'è capire anche perché siano in panchina magari, perché tu quando l'ascoltatore prima diceva un 4-3-2-1, devo dire in questo momento, premesso che io ho visto Cuadrado Benino, mentre male, abbastanza male, non benissimo Mandzukic, secondo me è una squadra che ha la potenzialità di giocare con Dybala, Douglas Costa e Higuain, e come alternative, fantastiche, Cuadrado e Mandzukic, secondo me è una super squadra con tre centrocampisti magari. Quindi sì, va capito come mai sta facendo, sta gestendo energie, perché lui vuole arrivare sempre a marzo. Certo, non dobbiamo arrivare staccati di 10 punti a marzo, sennò poi ci si fa poco. La Roma ti fa paura? Il Napoli lo diamo per scontato, insomma, lo si dice dall'inizio anno a maggior ragione. L'Inter è continua, però molto banale, veramente da calciatore, dico che noi in questo momento siamo spaventati un po' dai risultati in cui non troviamo una continuità assoluta e prendiamo tanti gol, come detto, quindi è più questo che mi spaventa. Sono molto curioso di questi scontri diretti a partire da mercoledì col Barcellona, dove non prevedo affatto un risultato tennistico, come ha detto qualcuno, anzi mi aspetto una grande partita della Juve, spero. Poi certo con questa difesa e Messi e compagnia non si sa mai come va a finire. Ma perché ve la pigliate sempre con Allegri quando le cose vanno male? No, io personalmente no, lo sai, io dall'inizio... In generale, voi juventini... Quando mi avete convinto, un momento in poi sono diventato un allegriano... No, vabbè, sai, comunque ci sta, il tifoso juventino è un po' viziato. Sei anni di scudetti ti fanno sentire la pancia piena e quando non vinci, non giochi bene, sembra incredibile essere secondo o terzo in classifica o pareggiare a Bergamo oppure perdere... ci sembra incredibile, siamo un po' così in questo momento, penso sia questo il motivo. Sì, la cosa incredibile è che potenzialmente la Juventus questa notte è quarta barra quinta, perché se questa sera l'Inter vince la scavalca e la Roma è dietro di un punto con una partita in meno, la Lazio è dietro di tre con una partita in meno in casa con l'Udinese, quindi diciamo, poi per carità c'è anche la follia di come stanno correndo in testa in questo campionato. Grazie Massimo. Ciao Max. Grazie a voi. Ciao, a presto. Allora abbiamo tempo, aspettiamo anche che parli uno dei protagonisti assoluti di questo inizio di stagione, che è Marco Giampaolo. che è un grandissimo allenatore. Abbiamo Andrea e Sergio. Andrea. Salve, buonasera. Ciao, grazie, buonasera a te. Per avermi convocato. Vai. Io volevo intervenire naturalmente per Sampdoria Juventus. Sento molte critiche da parte vostra e anche di alcuni tifosi alla difesa. Ma secondo me il problema principale della Juventus io lo vedo al centrocampo, lo vedo più che in difesa, perché vedo un Khedira che obiettivamente, insomma, secondo me è in una condizione imbarazzante, e vedo anche un Pjanic che è fenomeno, un giocatore che al pallone gli dà del tu, ma fa una partita sì e tre no. Perciò io volevo sapere, secondo voi, cosa ne pensate di questa cosa. Che secondo me, Andrea, il problema del centrocampo poi in realtà si ribalta sulla difesa, perché davanti la Juve non ha grossi problemi. Il problema è che quel centrocampo che tu hai descritto, che potrebbe essere corretto, che hai in Matuidi, in Bentancur, ad esempio oggi sono partiti fuori, ha comunque delle alternative importanti. In realtà il problema è che non dà equilibrio dietro, dove poi non ci sono più i fenomeni di prima. Sergio? Sì, pronto? Eccoci, vai. Ciao, salve. No, io vorrei rispondere soltanto che, cioè, dicendo che mi dà noia quando la gente dice il ciclo della Juve è finito, ma è già tanto che una squadra italiana abbia raggiunto questo ciclo, ragazzi. Ora, io sono un tifoso della Juventus sfegatato, e il problema della Juve è che deve smettere di aspettare i giocatori a parametro zero, come vorrebbe fare a gennaio con Emre Can. Cioè, Marotta deve buttare soldi, perché se in Champions League la spuntiamo, per fortuna, ragazzi, abbiamo il PSG che sono dolori. Sì. Non mi sembra che non li abbiano messi. Non è che ragazzi, non stia spendendo, però, la Juve, perdonami. Il problema, secondo me, il tema è proprio quello, perché Bernardeschi e Douglas Costa, per intenderci insieme, sono costati un'ottantina di milioni di euro, non due lire. E tutti e due in questo momento non stanno certamente incidendo per quello che sono stati pagati. Abbiamo però tempo per andare avanti a parlarne. C'è chi scrive che saranno le prossime 5 partite a decidere se sarà una stagione vittoriosa o una stagione di transizione per la Juventus. Vi aspettiamo 800 24 00 24, fino alle 19 ci siamo, oppure 349 238 6666. Tutti convocati. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Tutti convocati. C'è chi ci rimanda i messaggi mandati a settembre con il voto 4 al mercato di Marotta e Paratici. Carissimo Luigi Pardo, ciao. Ciao, allora, ciao. Ricordiamo l'ultima volta il numero, perché ci state sommergendo di telefonate. 800 24 00 24. Noi andiamo avanti fino alle 19 e c'è ampio spazio per sentirvi. C'è anche già Donato a Genova che ci sta ascoltando. Pier, la tua impressione sulla Juve crollata anche oltre il 3-2 a Marassi? Sì, oltre il 3-2, difficoltà difensive molto grandi, che sono secondo me la grande differenza rispetto agli anni scorsi. Cioè, dal punto di vista della produzione offensiva, la Juve continua a fare, poi ci sono delle partite nelle quali è più ispirata, delle partite nelle quali è meno ispirata, qualche scelta di Allegri ovviamente la si può discutere, ma insomma, siamo sempre di fronte a una squadra che produce gioco. Dietro non è la squadra di una volta. Poi ci sono ovviamente anche i meriti della Samp, però guarda, arrivo a dirti che anche il gol di Dybala, che è il gol del 3-2, cioè dopo il 3-1 io mi sarei aspettato una Juve arrembante, e invece chi ha visto la partita sa che dopo il 3-1 la Samp ha avuto altri due minuti di controllo assoluto, cioè quella reazione non c'era stata. Poi c'è stato un gran gol di Dybala in contropiede, però ecco, mi ha un po' colpito quello, perché secondo me un anno fa una partita del genere la Juve si metteva a testa bassa a provare a rimetterla sì, in piedi. Anche quest'anno la Juve fin qui era stata capace di rimontare. Oh, c'è chi se la prende con l'arbitro, mancano due rigori, un fuorigioco fischiato inesistente, il terzo gol della Samp irregolare. Allora io lo dico, 3-0, avendo visto la partita, però insieme anche alle altre, oggettivamente il terzo gol della Samp mi sembra irregolare per come è stato mostrato. Ma con quella spinta di Zapata 3-0, e sui rigori non ho tutte queste certezze. Donato da Genova, vai Donato. Grazie per avermi convocato. Volevo sottoporvi un'analisi sul ruolo di Mandzukic e associandomi anche alle critiche sul centrocampo. Oggi male, Mandzukic. Sì, infatti. Ma secondo me il fatto di snaturarlo, di farlo giocare in una posizione che non è sua, incide molto poi nelle scelte. Non riesco a capire l'ostinazione a non sostituirlo. Sembra quasi che lui per farlo giocare lo faccia giocare in quella posizione lì. Secondo me giochiamo con un non in meno, quello sì. Io voglio ricordare che Mandzukic si siede in fondo allo spogliatoio insieme a Buffon, è un leader di questa squadra, quindi sì, questa può essere una spiegazione. Però non è neanche che insomma la Juve può avere le alternative, non so Pier cosa pensi tu. Sì, no, ma è in un momento, se si giudica la partita posso essere d'accordo, se si giudica nel complesso Mandzukic è uno dei leader di questa squadra, è un giocatore importantissimo, un giocatore che anche quest'anno ha risolto delle situazioni non semplici, quindi sai, appunto, calcio è liquido. Oggi, se parliamo della partita di oggi, sicuramente sì. Sicuramente in generale secondo me ci sta che Allegri lo valorizzi e che anzi magari insista in momenti in cui non è brillantissimo. Ma questo tra l'altro credo faccia parte delle corde di Allegri. Saluto Franco Ordine, ciao Franco. Ciao Ciccio. Come qua, uno che Allegri lo conosce benissimo. Allora, mi dici se lo riconosci questo Allegri o no. Poi dopo facciamo sentire Montella, perché parliamo anche dell'altra grande delusa di questo fine settimana. Franco. Ma lo riconosco nel senso che mi sembra che lui sin dall'inizio abbia un po' capito dove stava andando la barca. Qui noi abbiamo due aspetti di cui uno non viene assolutamente preso in considerazione, e cioè l'aspetto che non viene mai preso in considerazione è quello psicologico. Io non ho mai incontrato nella mia anonima carriera di cronista di calcio un ambiente, dicasi spogliatoio, che dopo aver vinto 6 scudetti di fila continua a avere la stessa rabbia, la stessa determinazione, la stessa motivazione, la stessa concentrazione negli allenamenti. Vabbè, Allegri l'aveva capito a giugno, però questo. Poi però è lui che ha deciso di restare, Seconda, non è che l'hanno legato. Ho capito, vabbè, non è che uno perché prevede una cosa del genere se ne scappa. No, ma significa che era convinto di poter invece trovare quegli stimoli. Poi secondo aspetto è quello che sta nella costruzione della squadra. Avendo perso due puntelli difensivi, Bonucci e Dani Alves, e avendo impostato tutta la campagna acquisti, il rafforzamento sulla possibilità di aumentare il prodotto offensivo, oggi si ritrova con una Juventus che fa tanti gol più di prima, ma ne subisce altrettanti più di prima, e questo bilancio obiettivamente spiega la sua, diciamo, la sua difficoltà. Oggi devo dire, al di là di tutto, secondo me ci sono anche due episodi, perché sullo 0-0 Cuadrado sbaglia un gol che, se l'avesse sbagliato Dybala, avrebbero chiamato i carabinieri. Sì, il calcio è fatto anche di quello. Allora, certo. A proposito di episodi, tanto andiamo avanti a parlare fino alle 19, parliamo un attimo del Milan, approfittiamo di Franco, mi fate sentire il riassunto di ieri sera del Milan. Con la prestazione, la squadra ha dimostrato una buona personalità, anzi una personalità in netta crescita, delle trame in netta crescita. Le ultime due partite abbiamo giocato, che abbiamo perso con la Juventus, e sono avanti, il Napoli è avanti. E allora, premesso che giochiamo ogni 3 giorni, c'è poco tempo per allenarsi, ma non è assolutamente un alibi. La squadra è in divenire, inevitabilmente, no? E se mi chiedi in cosa penso che la squadra debba migliorare, sicuramente dobbiamo cercare di avere di più la porta nella testa, ecco, questo sì. Wow. Ma io sono veramente ottimista, non lo so perché, o forse perché vedo la squadra, vedo che la squadra cresce, vedo che gli altri vanno particolarmente forte e non può andare sempre così, vedo che probabilmente noi abbiamo già passato il nostro momento peggiore e l'abbiamo in parte superato, ma dobbiamo superare l'altra parte più difficile. Rientreremo in lotta per le prime quattro posizioni. Allora, io faccio mio questo messaggio che è arrivato. Il Milan non può accontentarsi di perdere con dignità a Napoli. Detto che il Milan non ha giocato male ieri, Franco e Pier, tra l'altro tu eri a San Paolo per la telecronaca, però, insomma, mi sembra che dopo i fuochi d'artificio di Marassi il Milan si stia abituando a perdere. Franco, Pier? Sì, io devo dire proprio questo, secondo me, è il dato, oltre che oggettivo, anche più inquietante della vicenda. E cioè... intanto vi segnalo questo record assoluto mondiale, e cioè non era mai successo nella storia del Milan, ma nemmeno nella storia recentissima del Milan, che non era sicuramente esaltante come quella dei primi 27 anni del periodo berlusconiano, che il Milan perdesse contro le diciamo quelle che gli stanno davanti, cioè le prime sei. Non è mai successo. Secondo, perdere con dignità non può essere un titolo di merito per il Milan. Io la cosa devo dire francamente che ho visto ieri, intanto insomma io capovolgo, non so cosa ne pensa Pier, ma io capovolgo completamente la ricostruzione e il giudizio di Montella, perché ho visto una squadra subire un numero industriale di tiri in porta, primo. Secondo, effettuare un numero di tiri in porta praticamente pari quasi a zero. E secondo me produrre dal punto di vista offensivo una miseria dovuta in parte anche all'uscita di Suso, che è l'unica riconosciuta fonte di gioco offensivo. Pier, io ho visto una statistica agghiacciante: dopo i primi 45 minuti il Milan non aveva toccato una palla nell'area di rigore del Napoli. Pier? Ma mi sembra la tua sintesi sia perfetta, cioè il Milan si sta abituando. E questo è drammatico, o forse Montella si sta abituando, nel senso che io capisco che debba difendere il lavoro e la prestazione. Posso essere d'accordo, non è stato... Ma il Milan, a parte forse la partita contro la Lazio, e forse ci mettiamo anche quella contro la Samp, poi non è una squadra facilissima da battere, così come non è una squadra che vince mai, forse soltanto contro il Chievo, dominando. Chievo e Crotone, ma Crotone era un'altra... era geologica. Per il resto il Milan è una squadra che fa tanto possesso palla, è una squadra non semplicissima da battere, ma una squadra che alla fine perde le partite con le squadre è una sport, squadra che ancora non esiste, Pierluigi, è una squadra che ancora non ha una faccia. Ieri ha fatto una discreta partita sul piano dell'organizzazione in mezzo al campo, ma davanti propone pochissimo il Milan. Adesso non so come cambierà il dato dopo questa giornata, ma non penso che cambi molto, perché comunque ha fatto possesso palla a San Paolo. È la terza squadra per possesso palla nella metà campo avversaria del campionato, che vuol dire che la boccia, come si dice, la gioca. Non è una squadra provinciale come atteggiamento, però ha dei numeri offensivi che sono numeri sconcertanti. Sì, e che credo non siano legati semplicemente al fatto che André Silva non è ancora pronto, Kalinic ieri ha meritato di perdere, non c'è assolutamente discussione. C'è chi racconta di un fuorigioco di Insigne sul primo gol, è materia per chi deve studiare i nuovi software per il VAR, quelli sul fuorigioco tridimensionali e non bidimensionali, ma il Milan ha perso e basta. Credo che questa sia la sintesi. Grazie Franco. Ciao. Franco Ordine, andiamo subito nel traffico, poi c'è Omar, poi parliamo con Michele Plastino della Lazio anche, ma teniamo aperto il processo alla Juve. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Tutti convocati. Omar da Milano, 800 24 00 24. Omar, vai. Io sono un tifoso della Juventus e io sono convinto, almeno apparentemente, che qualche errore Allegri lo possa anche fare per giudizi e altre cose, però De Sciglio oggi poteva giocare al posto di Lichtsteiner, perché mi sembra che in questo momento Lichtsteiner sia un po' così, e Mandzukic c'è tre o quattro partiti che non è in forma, ma è poi è strutturale che non possa essere in forma 365 giorni all'anno. Provare a fare un centrocampo a tre con Matuidi o Marchisio, Pjanic, che dirà, magari la difesa soffre un po' di meno, meno. Matuidi può giocare al posto di Mandzukic. Sì, sì, però poi ripeto, davanti sono tanti, tu puoi anche scegliere strutturalmente di fare una squadra con un attaccante in meno e un centrocampista in più, i numeri ce li hai in mezzo, però poi resta il fatto che davanti comincia a diventare difficile, non so se Pier la pensi allo stesso modo, far girare una squadra che è stata però costruita per giocare con gli esterni e per giocare con tutta quella qualità lì davanti, perché credo che poi sia questo il problema. Intanto saluto anche Michele Plastino, ciao Michele. Direttore di Radio Sportiva e nostro amico, vai Pier. No, beh, che la Juve abbia un po' cambiato pelle anche dal punto di vista del mercato e che abbia provato, stia provando a diventare una squadra con un potenziale offensivo ancora superiore rispetto al passato, secondo me sull'ispirazione del 4-2-3-1 che nacque l'anno scorso proprio contro la Lazio a febbraio, questo è chiaro, il tentativo è chiaro, il risultato di questo tentativo ad oggi non è buono, non è buono perché alla fine soprattutto, ripeto, la parte difensiva, la fase difensiva non va più come un anno fa. Funziona. Questo è banale. Poi si può discutere, sì, di Steiner, De Sciglio, cioè mi sembra un paradosso, perché rispetto al pensiero di Omar, però capisci che se si arriva a rimpiangere De Sciglio, che è stato forse il più criticato dell'avvio di stagione per quella Supercoppa italiana, questo ti fa capire che qualcosa non sta andando. No, assolutamente. No. Io invece volevo chiedere a Michele Plastino, che saluto e ringrazio di nuovo, il titolo del giorno dopo del derby di Roma. Oddio, mi dovevo preparare. Dunque, per me i titoli devono essere sempre abbastanza corti. Comunque, conferma Roma, Lazio niente perduto. Mi sembra che la Lazio non esca ridimensionata, se proprio devo dire la mia. Ieri la Roma ha vinto meritatamente ed è la prima squadra ad aver messo in difficoltà davvero questa Lazio in tutta questa stagione. Io credo, poi tra l'altro sto parlando con gente che di calcio ne capisce, no? Sentivo anche prima della Juve che la Juve è un pick up, nel senso che a volte si cambia tanto moduli, forma, Coppa dei Campioni, turnover eccetera. Quando cominciano ad andare bene le caselle vanno sempre bene, quando cominciano ad andare male vanno male. Perché faccio questo prologo sulla Lazio e anche sulla Roma? Perché la Lazio sta facendo un'annata straordinaria e magari in qualche circostanza l'episodio che ha provocato la grande partita è stata a lei favorevole. Vi faccio un esempio banalissimo: la Supercoppa quest'estate nasce da un inizio alla grande della Juve che si pappa un gol clamoroso con Quadrato, poi la Lazio reagisce, trova il gol, la Lazio poi gioca una partita straordinaria. Chissà che sarebbe accaduto al contrario ieri, e così anche altre volte. Ieri in realtà la Lazio mantiene la partita su certi binari, anche se poi in effetti non c'è stata mai una grande occasione per lei. Scema un po' alla fine del primo tempo, ma se supera quei 4-5 minuti micidiali del secondo, chissà come finisce. Quindi è stata anche una partita un po' decisa dagli episodi, con un punto interrogativo però. La Roma in costante crescita, sia per quello che riguarda la qualità, sia per quello che riguarda l'adattamento al modulo di Di Francesco, che è in un'annata di grande, straordinaria conferma e d'utilità, non dimentichiamo il finale a 5. Mentre la Lazio, l'unico campanello d'allarme è fisico. Ho avuto un po' come la sensazione ultimamente che venga un po' scemando la tenuta fisica, e mi spiego al volo, come se fosse partita molto sprint quest'anno e che magari per qualche attimo adesso dovrà patire questo e poi ritornare. Però ecco, ieri ho avuto questa sensazione: Roma in crescita anche fisica e la Lazio invece che sta scemando un po'. Che è un po' poi, Pier, la grande incognita legata alla Lazio, inutile girarci sì, intorno. Però ti posso dire, a parte della Lazio ha il precedente dello scorso anno quando perse il derby d'andata a dicembre, un derby dove era arrivata quasi la favorita, o comunque giocandosela almeno alla pari, gli umori erano quelli che, insomma, che potesse fare una grande impresa, e ha reagito benissimo, vinse il gara a Genova la settimana dopo. Io non credo che ci sarà il tracollo, io penso che la Lazio continuerà la sua stagione, che è una stagione molto positiva. Semmai la partita di ieri, diciamo, rimanda o allontana un salto di qualità ulteriore, cioè l'idea che la Lazio possa essere una squadra, non dico da scudetto, ma da la zona Champions. Ieri l'abbiamo diciamo capito, non può essere da scudetto, lo sapevamo già, può essere da zona Champions certamente a prescindere dal derby. Ma la Roma è invece da zona scudetto pienamente, sì. Cioè, La Roma, beh, è bello parlare con Michele Plassi di tattica, perché devo dire, no, perché insomma è brutto che abbiamo un minuto e mezzo. Che ne capisce che l'ama. La Roma di Di Francesco sta diventando un caso, perché su Di Francesco c'erano tutta una serie di etichette che si stanno puntualmente smentendo. Era venuto qui come fosse qui a Roma, adesso sto a Napoli, però insomma come uno zemaniano, come un allenatore che avrebbe regalato spettacolo e concesso molto. Di fatto la Roma è il contrario. È così, la Roma, Michele, mi ricorda la Roma di Capello. La Roma di Capello. Li ha convinti tutti o no a questo punto? Beh, io devo dire la verità, di Francesco ero sempre convinto. Io no, non ritengo. Ritengo la parte di Capello quella della gestione degli uomini, e sono d'accordo con Pierre. Tatticamente io rivedo sempre lui, lo zemaniano di scuola, riveduto, corretto e modernizzato. Che è un bel complimento, visto che Zeman si è provato a interpretarlo, rivederlo e correggerlo per tutta la carriera. Non c'è riuscito nessuno. Ma è questo, no? Concede pochissimo e sa che il momento arriverà. Sì, sì, e poi ha anche i giocatori giusti per approfittarne. Allora, abbiamo il GR, ci fermiamo. Io ringrazio Michele Plastino, grazie, alla prossima, Michele. Ciao. Pierre invece ovviamente resta con noi, 800 24 00 24. Abbiamo ancora un'ora per parlare della Juve, dell'Inter che gioca questa sera, per parlare di Tavecchio che domani potrebbe presentarsi dimissionario. Torniamo subito. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23.20. Mi manca 23.24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Vuoi diventare professionista del mondo radiofonico? La Business School del Sole 24 Ore, in collaborazione con Radio 24 e RDS, organizza il Master Part-Time Radio Management and Content a Milano dal 23 novembre. Per info www.radiomaster.ilsole24ore.com. Tutti convocati. Vabbè, tu dici che sono di quelli che non sanno invecchiare, che il tempo con i calci di un terzino non lo lascio passare. La debacle è tecnica, la scelta tecnica sbagliata della formazione. L'allenatore? Devo dirlo per volta. Chi ha scelto però l'allenatore? L'ho scelto io l'allenatore. La notte non dormo mai, la notte non dormo mai, la notte non dormo mai. È un po' stressato? Dorme tranquillo? No. Non dorme? No. Sono 4 giorni che non dormo. Dorme male, insomma. La vedo un po' emozionata. Si dorme e si sveglia. C'ha gli occhi lucidi. No. Abbiamo giocato male. Abbiamo giocato con una palla sulle fasce e cross in mezzo, questo abbiamo fatto. Con gente alta quasi 1,90. Noi dovevamo girarli con i piccoletti. Che però stavano in panchina. Che stavano in panchina, ha detto bene. La notte non dormo mai. Magari non dorme neanche questa notte Tavecchio. Allora, lo avete sentito nel GR, sono ore decisive. Questa mattina chi ha letto la Gazzetta dello Sport ha scoperto che uno dei pezzi della maggioranza di Tavecchio in vista del Consiglio federale di domani si è sfilato. Stiamo parlando della Lega Pro. In realtà in queste ore si sta sfilando anche qualcun altro, quindi in realtà ciò che 3 giorni fa sembrava impossibile, cioè Tavecchio dimissionario aveva detto che era indisponibile alle dimissioni, potrebbe essere tra qualche ora invece lo scenario possibile. Scopriremo tutto domani a partire da mezzogiorno. Lo sfogo che avete sentito è quello di Tavecchio alle Iene, che andrà in onda in integrale questa sera in prima serata. Carissimo Pier, carissimo Carlo. Quindi a questo punto non sappiamo nemmeno chi dovrà cercare il nuovo allenatore nazionale nell'immediato. Quello che sappiamo per certo, e coinvolgo anche gli amici da casa, è che in questo grande X Factor si stanno sfilando un po' tutti dalla possibile panchina. Ad esempio si è sfilato Conte, che però è quello che è sembrato un po' più possibilista. I must be honest, I think that this moment is not simple. There are a lot of rumors for the federation. It's right to take the right time and to find the best solution for the football in Italy. Poi si è sfilato Ancelotti perché il procuratore amico ha detto che, con grande rispetto, ma al momento non è nelle sue priorità. Ieri si è sfilato Allegri. Assolutamente no, è una mia ambizione, ma non in questo momento. Io mi tolgo di scena, se ne riparlerà tra qualche anno, se, sempre se mi daranno la possibilità, altrimenti vado al mare. Si è sfilato Sarri. Potrebbe mai fare il CT? È più facile farci il politico, che mi presenti alle elezioni. Si è sfilato Spalletti. Vi ringrazio tutti, ma io, la mia posizione ora però è una cosa che mi piacerebbe fare, ma non ora. Chi vedo bene allenatore della nazionale me lo chiede, sì, allora Ancelotti. È un po' come il gioco del cerino, Pier? Sì, è un po' il gioco del cerino, poi è anche chiaro che nessuno ti viene a dire sì, speriamo che vada, voglio andare, no, sì. Sì, in questo momento è una comoda panchina, come nel caso di Sarri. Quanto possono essere comode le panchine, di Sarri, Spalletti o degli altri che abbiamo ascoltato. Ma insomma, mi sembra, per quanto riguarda Tavecchio, innanzitutto complimenti al mio amico Niccolò De Vitis, perché veramente le Iene, poi qualche volta anche con qualche polemica su vicende. Posso dire una cattiveria, Pier? Che è stato il più clamoroso degli autogol. Oggi sì, qualcuno gliel'ha scritto, che quelle cose si fanno con i giornali, con i telegiornali, quelli veri, fra virgolette, non perché noi pensiamo che le Iene non siano vere. Ma perché, insomma, qualcuno se l'è legata al dito, al di là del contenuto poi dello sfogo, su cui si può discutere per mesi. Tavecchio, no? Io penso che Tavecchio abbia come principale pecca l'aspetto della comunicazione. E dal momento ci siamo accorti subito e continua. Io avrei fatto, come dicevo qualche giorno fa, l'esatto contrario. Io sarei andato in conferenza stampa o il giorno dopo, insomma, comunque nell'immediata vigilia della partita, da dimissionario, e avrei rivendicato poi all'opinione pubblica e ovviamente a livello di Consiglio federale i risultati su altre aree che questa federazione, secondo me, oggettivamente ha ottenuto in questi anni. Sì. Avrei ribaltato completamente la questione, avrei detto: io mi dimetto perché dopo un insuccesso di questo tipo credo sia doveroso fare un passo indietro, perché non sto attaccato alla poltrona, però ci tengo a precisare che, come la gestione di un presidente federale non riguarda soltanto una squadra nazionale, è uno degli elementi, molto importante, ma è uno degli elementi. Ho fatto questo, questo, questo e questo. Alcune cose oggettivamente bene, altre cose meno bene, ma se ne può discutere. Questo è quello che avrei il momento della resa dei conti, tanto a questo punto è domani, l'abbiamo capito tutti. Un conto è arrivarci con quattro giorni di massacro mediatico, perché sembri il vecchio politico che non vuole mollare la poltrona. È chiaro, però anche l'altro giorno ne abbiamo parlato, anche venerdì ne abbiamo parlato, insomma servirebbe anche un piano B, perché in questo momento sull'onda dell'emotività si possono anche fare degli errori, quindi secondo me è il caso di ragionare con calma su queste situazioni. Figurati, io sono d'accordo, insomma è chiaro che, ti ripeto, non sono per Tavecchio, però francamente non credo neanche che sia solo colpa sua, non credo, perché l'abbiamo detto tante volte in questi giorni, quando Ventura è stato nominato allenatore della nazionale. Non c'è stata una manifestazione di piazza. Non c'è stato, molti dei colleghi che leggo in queste ore arrabbiatissimi, non ricordo tweet o articoli o... Ma noi siamo in un paese che ama i processi in piazza, con qualcuno da impiccare metaforicamente, ovviamente. Da un momento all'altro. Secondo me quello che abbiamo sentito è vero da parte di Tavecchio, cioè secondo me il fallimento delle ultime partite sarà un fallimento tecnico, il fallimento di una persona che io stimo ancora, che mi è anche simpatica, che non ci ha capito nulla alla fine. Marco da Pistoia, dai Marco. Marco? Pronto? Vai. Sì. Mi sentite? Sì, dai, forza. Allora, ascolti, io la prima volta è chiaro. Arrivo di una cosa, il calcio è come la politica, lì c'è dei compromessi. Nel senso, chi ci va, si deve competere con quell'altro. Morale della favola, voglio dire una cosa sola. Nel senso, chi ci va in nazionale, quello lo può convocare. Io dico una cosa, Spinazzola. Sì, cioè che non deve convocare Spinazzola. Vabbè, insomma. Poi vediamo, Luciano dalla provincia di Vercelli. Luciano. Grazie per la convocazione innanzitutto e complimenti per la trasmissione. Grazie, vai. Tifoso juventino, abbonato allo stadio dalla prima ora. Dovete illuminarmi su due questioni delle quali dibatto spesso. Ci proviamo. Una l'avete già citata, perché l'unico colpito del turnover di ritorno dalle nazionali sia Dybala nella Juventus, che è obiettivamente il giocatore più forte che abbiamo, e due, l'intestardirsi a far giocare Mandzukic, finito l'effetto sorpresa dell'anno scorso, quando Douglas Costa ogni volta che entra crea, l'ha dimostrato anche oggi in 12 minuti, un rigore, una palla a Dybala che ha fatto il 3-2, prima aveva saltato almeno 9 uomini e guarda Luciano, su Dybala rispondo io, c'entra poco la nazionale, era una scelta tecnica, un segnale, Dybala viene da un periodo non straordinario. E sul resto Pier invece? No, sul resto, su Douglas Costa, sono d'accordo, oggi ha avuto un impatto molto importante, sul resto è quello che ci siamo detti prima, cioè va risolto in casa Juve il problema dell'equilibrio difensivo, cioè alla fine il rapporto è sempre costi-benefici, è sempre fase offensiva, fase difensiva, occasioni che crei e occasioni che subisci, e in questo momento questo bilancio per la Juve non è quello dei migliori, ha perso due partite contro squadre di alta classifica e non sono poche, ha perso altre due partite contro Barcellona e Lazio in Supercoppa italiana, insomma, non è più il bilancio. Non sono poche, anche perché il calendario fin qui non è stato cattivo. Tant'è vero che arrivano adesso, esatto, i confronti diretti, tutti a dicembre. Abbiamo il traffico, c'è già Romualdo, poi chiamiamo un altro grande ex di tante cose di cui parliamo oggi: del Napoli, della Lazio, della nazionale. Prima però il traffico. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. Ci siamo confrontati tra colleghi, tra dirigenti di club, e dico che questa è una sconfitta non delle persone. In questi giorni abbiamo assistito a caccia alle streghe, colpa di uno, colpa dell'altro. Questa sconfitta è la sconfitta del movimento intero. Il nostro club, come gli altri club, si metteranno a disposizione dei vertici federali per insieme cercare di concertare una piattaforma, un programma per il futuro. Sicuramente le cose non vanno bene, non sono andate bene nel passato, nel recente passato, e quindi questo secondo me è l'intervento che bisogna fare. Bisogna mettere al centro il pallone. Questo secondo me sono cose importanti che vanno assolutamente separate da quello che poi è il ruolo istituzionale, mondiale ed europeo che la nostra federazione ricopre. Questo Marotta oggi, prima della partita, parlando delle questioni nazionali, nel senso di crack degli azzurri, Tavecchio, Federcalcio, programmi, futuro, elezioni, insomma avete capito, non tutti hanno scaricato Tavecchio. Saluto intanto Bruno Giordano, ciao Bruno. Ciao Bruno. Ti posso rubare un minuto perché c'è Romualdo che ci sta aspettando da tempo. Romualdo, no, vai. Mancherebbe. io sento una marea di persone che inveiscono contro Tavecchio e anche a me all'inizio Tavecchio non era molto simpatico, qualche battutaccia, qualche gaffe, ma bisogna sostenerlo invece, perché due cose ha fatto, secondo me, vi chiedo conferma a voi che siete mestiere, chi è che ha portato il VAR, che taglia tante discussioni, tante polemiche, tante... Sì, Tavecchio. Che innova, l'ha portato Tavecchio, sì. Poi? E poi, l'altra cosa, chi è che li fa giocare i giocatori a Natale? Cioè, in Inghilterra giocano tranquillamente sempre a Natale, qui in Italia solo quest'anno, se non mi sbaglio. Sì, cominciamo da quest'anno, sì, cominciamo da quest'anno. Come mai? Allora, come mai? Perché storicamente... Cose buone, sì. È cominciato anche il campionato in anticipo rispetto agli altri anni. Cioè, insomma, tu terresti Romualdo, rispondimi con un sì o con un no, perché sennò diventa un editoriale. Tu ti terresti Tavecchio, sì o no? Io mi terrei Tavecchio, come? Perché quelli di prima hanno fatto niente, quasi niente. Quelli di prima hanno fatto, abbiamo anche avuto grandi dirigenti, ma noi lo stiamo dicendo da una settimana che Tavecchio va giudicato su tante cose, non solo su quello che è successo contro la Svezia. Non so che pensiero ha Bruno Giordano, così glielo chiediamo. Ma io credo che ci vorrebbe una settimana per parlare. Io credo che, come diceva il grande Gino Bartoli, è tutto da rifare. Perché non è possibile poi sentire queste cose. Io do fare un presidente di federazione perché ha messo la VAR, e poi questa VAR che vale per alcuni e per alcuni no, perché poi andiamo a vedere, per dire, il calcio di rigore ieri della Lazio ha segnato, e chi dirige questa VAR chiama l'arbitro a sostegno, e oggi pomeriggio la Juventus invece manca un calcio di rigore e dallo stanzino, vedendo il monitor, non viene chiamato, per cui anche lì c'è l'errore umano. Non è detto che questa VAR per no, forza di cose però io credo, Bruno, che non sia sbagliato dire che l'errore umano c'era prima, ci sarà sempre, perché poi c'è sempre l'intermediazione di un uomo. Se però ci sono meno errori in campo, alla fine ci abbiamo guadagnato qualcosa. Sì, però c'è anche molta meno emozione in campo, perché non posso aspettare che qualcuno esulti dopo due minuti. Cioè, ma poi può essere anche fatta bene, però dire che da qui si sono fatte delle cose straordinarie. Io dico soltanto che il presidente federale viene eletto da alcune istituzioni che non avrebbero assolutamente, per me non dovrebbero neanche presentarsi, perché ci sono presidenti di Lega Pro che dopo due mesi una società come il Modena fallisce, per cui di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle regole che sono scritte, non possiamo farci nulla, o cambiamo tutto, possiamo essere d'accordo. Sono d'accordo, però insomma le regole sono queste, la suddivisione. E allora che teniamo sto calcio? No, possiamo anche non tenercelo, però il discorso è che non possiamo fare tutto sull'onda dell'emotività, ok, la nazione è fuori dai mondiali e tutti no, fuori dalle palle. No, ma questo andava fatto 10 anni fa. Sì, no, non discuto. Perché i stranieri sono anche quelli... prima. Però io credo che bisogna cambiare il regolamento. Soprattutto degli italiani ci vorranno 4-5 anni per rivedere dei giocatori importanti. Se saremo bravi a lavorare. E magari quelli che abbiamo sarebbe anche però, il caso di ragazzi, farli giocare. Siamo usciti dal mondiale per un problema tecnico. Sì. Questo leggo, va detto, dai, Italia-Svezia l'abbiamo persa noi per errori tecnici, tattici. Poi è chiaro che io preferirei Tommasi lì, o non so chi altri, no? Ma io non sono sicuro, ma non per Tommasi, Tommasi. Ma no, appunto, però voglio dirti che è chiaro che come immagine Tommasi o Maldini o chi volete voi, o lo stesso Ancelotti a capo di un progetto tecnico a 360 gradi sarebbe fantastico. Ma al di là del fatto che questa soluzione qui rischia di non esserci, perché si rischia di passare da Tavecchio a un'altra soluzione, diciamo, simile, no? Di qualche altro politica. Uomo federale, adesso non so chi possano essere i candidati. E poi secondo me le cose vanno viste per quello che sono. Noi siamo usciti perché abbiamo giocato malissimo dalla Spagna in poi, contro la Svezia dal punto di vista tecnico non ci abbiamo capito nulla, non siamo stati neanche fortunatissimi, va detto, ma non deve diventare un alibi, però insomma sicuramente con un paio di situazioni diverse adesso stavamo al mondiale e probabilmente non ci sarebbero state queste levate di scudi che leggo in questi giorni. Insomma, secondo me le cose vanno valutate nello specifico. Se Tavecchio ha avuto la colpa di prendere Ventura, allora però mi chiedo perché io in quelle settimane lì non ho visto, non ho letto editoriali clamorosamente indispettivi contro questa scelta, perché nessuno l'ha detto, perché? Io non me ne ricordo, sinceramente non me ne ricordo. No, ma non c'erano, sinceramente non c'erano. E lo apprezzai molto, furono alcuni editoriali nei quali si sottolineava la schiena dritta della federazione che aveva scelto quel candidato e non Montella, che sembrava fosse stato in qualche modo, sembrava poi il dubbio rimane, suggerito dall'allora presidente del Consiglio. Io ero d'accordo con quegli articoli, perché è chiaro che il calcio deve essere autonomo nelle scelte, ci mancherebbe altro. Mi sembra che Ventura l'abbiamo accolto tutti, sapendo che non era Conte, lo sapevamo benissimo all'inizio, ma adesso Conte se ne era voluto andare, perché abbiamo detto molte volte che non c'era la fine. Tanto l'ha ricostruita anche ieri Tavecchio, dicendo che lui aveva altre idee. Il problema non è Ventura, anche se Ventura è stato un problema. Il problema è anche Ventura, però perdonami Bruno. Con questi giocatori che facciamo? Al mondiale ci andiamo o no? Sì. Cioè, diciamo adesso, perché poi ripeto, Tavecchio domani probabilmente si dimette ed è giusto che si riparta da zero. E questo è per dirla chiaramente. Però raccontare che con la Svezia noi non passiamo perché Ventura non è un elemento decisivo in questa vicenda, come ha gestito le due settimane, io credo si faccia un errore, Bruno, adesso con tutto il rispetto. Cioè, anche questa federazione è un portone, io l'ho detto due anni fa, io forse sono stato uno dei pochi e chi mi conosce lo sa. Ma il problema può essere Ventura, ma è anche tutto il movimento, perché Ventura può scegliere con Del Piero, con Totti, Coprirlo è una cosa, se deve scegliere con Jorginho che dobbiamo andarlo a prendere dal Brasile, è tutta un'altra cosa. Per cui ci sono le colpe sia di Ventura ma di tutto il movimento, perché se non nei settori giovanili cominciamo dagli allievi giovanisti a portare stranieri, tra 4 anni ci saranno gli stranieri bravi, non ci saranno gli italiani bravi. Hai ragione, detto questo, poi siamo usciti con la Svezia, perché avevamo... Ma la Svezia c'aveva Roden del Crotone. Appunto. Ma siamo usciti con la Svezia non perché abbiamo un movimento calcistico che è inferiore a quello svedese, perché le scelte che sono state fatte in quelle due partite non sono state all'altezza, ragazzi miei. D'accordissimo. D'accordissimo. Cioè, appunto per questo, cioè, anzi, secondo me c'è della vita nel movimento calcistico italiano. Poca, ma c'è. Poca. Poi vedi Insigne ieri sera. Ma ragazzi, e ti chiedi perché è stato fuori? Sì, chiaro. Capito? Era squalificato la seconda. No, non era squalificato. è stato panchinato, ma non era squalificato. Senti, mi fate approfittare Bruno Giordano prima della pausa per il meteo per chiedergli se l'hanno del Napoli? Oggi è un bel segnale. Questi 3 gol della Juventus è un segnale molto importante. In positivo per il Napoli, in negativo per la Juventus, perché io mi aspettavo una grande reazione da parte della Juventus dopo l'eliminazione, invece tranne gli ultimi 15 minuti, insomma, ho visto una bruttissima la Juventus, anche se, ripeto, gli è stato tolto un calcio di rigore sullo 0-0 per fallo di mano sul cross di Cuadrado. È una Juventus che secondo te ha più problemi a mettere insieme i giocatori che ha, e l'esempio è le difficoltà che ha in difesa, o è più una questione di motivazione? È un po', però credo che debba, cioè, torniamo anche lì, come è pensabile vedere Dybala in panchina, è come se tu al Barcellona metti Messi in panchina, cioè i grandi giocatori, quei pochi che ci abbiamo qui in Italia li mettiamo anche in panchina, per cui non discuto Allegri che è un grandissimo tecnico, però insomma credo che in alcune valutazioni ultimamente non sia perfetto, anche Alexandro che gioca poco, insomma Matuidi che è l'unico che sa fare filtro, ho visto una Juventus molto squilibrata. Grazie Bruno. Ciao Bruno, a presto. Ciao. Grazie Bruno Giordano, adesso ci fermiamo, saluto Pier dicendo che c'è qualcuno che ha fatto peggio di Ventura in questa settimana. Ed è Pierluigi Pardo, che ha un meraviglioso 1 su 8. Ragazzi, bambini dell'asilo. Che vedevo di? Com'è andata a finire? 5 a 5. 5 pari, no? E allora non fare gradasso, Capuano. Non vincevi dallo scorso autunno, da settembre. Ciao Pier. Esatto, bravo Carlo. Io più abituato a vincere. Domani aspetto il tweet ufficiale di tutti i convocati, che quando vince Pier c'è sempre. Ciao Pier. Ciao Pier. Aspetto del sud. Torniamo subito. Ciao. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Quando sono arrivato qua e con i direttori si parlava di quello che dovevamo fare, si aveva un po' di certezze su tutti, un po' di dubbi su tutti, c'era da trovare un po' di solidità, si può allargare questa solidità. Ci sono altri calciatori che possono far parte di quella squadra che ha giocato più minutaggio, ecco, nella lunghezza del campionato c'è bisogno di tutta la rosa, insomma. Stasera ore 20:45, Inter-Atalanta. L'Inter potrebbe tornare al secondo posto da sola, battendo l'Atalanta, salirebbe a quota 33 punti, meno 2 dal Napoli. E insomma, quindi ci sono mille significati in questa partita. Per la sesta volta consecutiva Spalletti fa giocare, a meno di sorprese, la stessa formazione, e non accadeva dal 94-95. L'Ascoli si era fermato a quota 5 partite consecutive con lo stesso 11 titolare, roba da vecchio calcio. Massimo Paganin, ciao. Ciao Massimo, ciao. Rispondetemi a una cosa, a partire da tu Giovanni, ma non è così che si fa? È così che si fa, se te lo puoi permettere. In che senso? E hai magari un solo impegno per settimana e non hai gravi infortuni. Perché se invece giochi con il Rijeka o con la K Atene... No, però ad esempio Allegri questa cosa non la può fare. Massimo. Allegri no. Montella potrebbe. Massimo? Eccomi qua. Come la pensi tu? Io sono d'accordissimo sul fatto che lui non faccia il turnover, credo si sia scelto la sua squadra, e sono gli altri ovviamente che devono cercare di portarvi al posto a quelli che in questo momento sono più titolari, credo abbia scelto semplicemente quelli che sono più in forma, quelli che gli danno più garanzie. Ha fatto una rotazione soprattutto con i centrocampisti, ma poi per ciò che riguarda gli altri giocatori, grandi sostituzioni o grande possibilità di scelta non ne ha poi alla fine, no? Quindi sono stati comprati giocatori nuovi come Cancelo, come D'Albert, Caramò, però sono giovani e hanno poca esperienza per ciò che riguarda il campionato italiano. Quelli che sono a disposizione, stanno giocando in questo momento, credo sia l'11 più titolare che possa essere, e le scelte soprattutto per i due davanti alla difesa che sono Vessino e Gagliardini, ha fatto ruotare, ha provato Borja Valero, ha provato Brozovic, sono quelli che gli danno più affidabilità sia nella fase di costruzione che nella fase soprattutto di non possesso palla. E poi ha trovato Borja Valero tra le linee, avendo provato poi Brozovic e anche João Mario, per cui al di là di tutto questa è la formazione che dopo una serie di tentativi lui ha ritenuto più valida ed è quella che sta facendo meglio. Poi ripeto, tutti quelli che sono a disposizione sono giocatori di qualità, stanno dando il loro contributo, perché anche Dere è un ottimo, un grande dodicesimo, e di conseguenza io credo Spalletti abbia fatto semplicemente queste considerazioni, facendo in modo che siano gli altri poi, ossia quelli che stanno in questo momento fuori, a doversi conquistare il posto in squadra. Si fa così, lo aveva fatto anche Mourinho, l'avevo già detto, l'aveva fatto Mourinho quando vinsero il triplete, si sceglie i suoi, lui solitamente fa in questo modo, sceglie i suoi 13-14 giocatori da portare poi avanti. D'altra parte il titolarissimo, quelli con più qualità sono quelli nella rosa di una squadra. L'Inter deve costruirsi, deve creare una rosa più profonda, è vero, nell'arco dei prossimi anni, però per quello che ha adesso a disposizione credo stia facendo quello che deve fare. Sì, l'ha fatto sempre anche Sarri, ad esempio, però l'abbiamo criticato quando poi sono arrivati i momenti di passaggio a vuoto o qualche infortunio, perché a quel punto quelli dopo magari non sono pronti, perché sono poco coinvolti nel progetto. Però certamente Spalletti fin qui è stato un fenomeno, nel senso che ha preso un potenziale limite dell'Inter, quindi una campagna acquisti non conclusa, con qualche reparto non adeguatamente rinforzato, e lo sta facendo diventare un punto di forza. Mi fate sentire quell'altra cosa di Spalletti di ieri. Stanotte i giocatori dell'Inter hanno dormito a casa. Ora, non è più una novità nemmeno nel calcio italiano, però quello che ha detto Spalletti è particolare e mi piace poterlo commentare con un ex giocatore che di ritiri ne ha vissuti tanti, anche quelli la sera prima di una partita giocata in notturna, e magari avrebbe anche apprezzato sentirsi dire dal suo allenatore questa cosa qui. Non bisogna andare fortissimo per poter ambire a quelle quattro posizioni. Stasera vanno a dormire a casa, arrivano domattina, alcuni vengono a dormire qui, alcuni arrivano domattina. Non mando a letto nessuno, non vieto di bere un bicchiere di vino a nessuno. Le cose uno le deve sapere da sé solo, perché trattasi di una cosa importante l'Inter. Tutte le volte ce ne sono 60.000 a San Siro. Questi non si possono assolutamente tradire, quello è il futuro del calcio, è la partecipazione dei tifosi agli stadi. È così, Massimo, o è solo perché in questo momento le cose vanno bene, quindi te lo puoi permettere? Non so, io non so se sia, credo che Spalletti abbia detto quello che ha detto perché ci crede ed è convinto, non credo lo stia facendo semplicemente perché le cose stanno andando bene. È chiaro che le cose stanno andando bene perché lui responsabilizza i suoi giocatori, questo è secondo me la cosa più importante al di là di tutto. Lui dà la responsabilità ai suoi giocatori, avviene già in altri sport, perché nel basket NBA in America funziona nello stesso identico modo, i giocatori sono responsabilizzati, è un dovere di un giocatore professionista farsi trovare pronto, e Spalletti non sta facendo altro che dare la responsabilità ai suoi giocatori. Mi sembra che fino a questo momento sia stato ben ripagato. Bravo. E quindi al di là di tutto è un percorso di crescita, un percorso di presa di coscienza, di consapevolezza e di assunzione di responsabilità. Questo permette ai giocatori di maturare e ovviamente di fare un percorso che si basa sulla fiducia da parte dell'allenatore nei loro confronti. Bravissimo. Ma a te quante volte è capitato, però, perdonami Massimo, di dormire a casa? No, non è capitato, devo dire la verità, non è capitato tante volte, è capitato soprattutto in coincidenza magari di turni non importanti, no? Dove l'allenatore provava. È chiaro che in quel momento lì ti assumi una responsabilità da allenatore, devi capire se per il principio di delega, perché al lato pratico è una delega che tu dai ai tuoi giocatori, no? Li deleghi di una responsabilità che ti dovresti assumere tu, invece di dire li faccio venire in ritiro, li tengo qua, prova a vedere se mi danno una mano nel percorso di crescita dello sviluppo del progetto, perché questo è quello che devi fare. Poi nel momento in cui ti fidi di loro e loro a loro volta si fidano di te, stai creando ovviamente un legame importante che si traduce poi in prestazioni sul campo. Questo è importante, non è così semplice, non è così facile, non è così scontato. No Max, è la chiave di tutto, questa è la chiave di tutto, la fiducia che c'è o non c'è, l'abbiamo visto in nazionale, lo vediamo nelle squadre di club, questa è la chiave di tutto. Però tornando al discorso a monte, e vale per Spalletti ora, così come vale per Sarri in fase di costruzione di questa squadra che si è evoluta, io continuo a pensare che il fatto, quando stai costruendo, il fatto di affidarti a un progetto, un disegno e a un numero limitato di giocatori nella fase iniziale sia fondamentale. Sì, direi di sì, è essenziale proprio perché poi via via dai fiducia ai tuoi giocatori e poi un po' alla volta coinvolgi coloro che arrivano poi da fuori o non sono stati magari coinvolti dall'inizio nel progetto. Certo, dopo. Quindi dopo, perché? Perché sai che ti puoi fidare dei tuoi giocatori, di quelli che ti hanno aiutato a costruire il progetto, di conseguenza chi arriva si deve abituare a un certo tipo di mentalità che sarà sicuramente una mentalità vincente, perché ovviamente l'hai costruita nel tempo basandoti sulla fiducia reciproca. Questo è essenziale e ripeto, sembra scontato ma è molto difficile da costruire, soprattutto sulla fase iniziale dove non ti puoi sbagliare, no? Non puoi fare degli errori nella fase iniziale perché rischiano di compromettere tutto il progetto, perché se non vengono i risultati viene minata quella che è la credibilità della parola e di ciò che tu stai dicendo ai tuoi giocatori e di conseguenza possono esserci dei disequilibri. Spalletti è stato molto molto bravo dall'inizio, ha lavorato credo di comune accordo con la società ed è un percorso di crescita, ha colmato, cioè nel giro di poco tempo, adesso magari ce ne dimentichiamo, ma l'Inter ha terminato il campionato scorso a 30 punti dalle prime tre praticamente, no? E lui ha dovuto colmare velocemente questo gap, questi 30 punti e lo sta facendo nel miglior modo possibile. Poi è chiaro che passa anche da partite come quella di questa sera il progetto Inter, perché diventa molto importante anche la partita di questa sera, perché è una partita nella quale l'Inter deve cercare di vincere indipendentemente dal risultato delle altre squadre. Era una partita che avrebbe dovuto vincere comunque anche se la Juve non avesse perso oggi o il Napoli non avesse vinto ieri, quindi sì, cambiava poco. Come quella col Toro prima della sosta che se vogliamo, esatto, diciamo, è stato uno dei pochi passi falsi. Grazie Massimo. Grazie, ciao, a voi, buona serata, buon grazie lavoro. A Massimo, ciao, Paganin. Ciao. Allora abbiamo Gaetano e Quirino. E prima però vi faccio sentire Chiellini pochi minuti fa ai microfoni di Mediaset Premium a proposito delle vicende legate alla nazionale. Poi alla fine se si fa le decisioni in un giorno e non si sa chi va e va qualcun altro che alla fine senza programmi ma solo per rubare la poltrona, non penso che ci sia niente di buono. Io mi auspico che si possa fare un percorso di qualche mese dove possa essere data l'opportunità anche di nuove elezioni, ma non ora, probabilmente neanche a febbraio, ma ci vuole tempo per portare candidati credibili e progetti credibili senza voler fare, come ho detto prima, una caccia alle streghe. Quindi congelare quel che c'è e aspettare di chiarire le nebbie. Io aspetterei un attimo, sinceramente. L'esperienza che ho vissuto nel calcio mi dice sempre che a caldo tante volte si fanno scelte sbagliate. Ci vuole equilibrio, lucidità e quindi grande pazienza in questo momento. Non banale, era il microfono di Sky, non di Mediaset Premium. Allora, Gaetano, vai. Buonasera. Premesso che faccio una premessa e un giudizio, che Ventura, le persone che hanno le loro idee e non si smuovono, in genere possono essere nocive. E poi, per quanto riguarda i calciatori, erano in campo. Non si sono resi conto che così non andavano da nessuna parte. È vero che c'è un capitano, però se ti dice buttati a mare, che fai? Credo se ne fossero resi conto, Gaetano, ma il racconto delle ultime ore prima d'Italia-Svezia è un racconto sportivamente, sia chiaro, drammatico. Corriere della Sera, Massimiliano Nerozzi l'ha scritto, gli sms fra giocatori, il tentativo di forzare la mano per far giocare Insigne. Io credo che ci fosse la consapevolezza che si rischiava, c'era forse la speranza di poterla sfangare comunque e poi di affrontare il pre-mondiale magari anche con un allenatore diverso, ma di poter comunque superare la Svezia davvero mediocre anche al netto degli errori dell'allenatore. No, questa è l'impressione che ho avuto, ma credo che i giocatori avessero capito tutto. L'impressione illusoria. Sì, ma credo che i giocatori avessero capito tutto di dove si rischiava di andare a sbattere. Quirino, poi facciamo il traffico. Dai, Quirino. Buonasera. Vai. Buonasera a tutti. No, il mio discorso invece è legato alla Juve. Vai. Io ne ho sentite tante oggi sulla Juve, sul fatto che è in crisi, sul fatto che non gioca bene, sul fatto che. Però la Juve oggi ha fatto una partita l'ha fatta lei la partita per 90 minuti, nel bene e nel male l'ha condotta lei la partita. Poi ci sono state problematiche che serie, perché poi io non credo che la VAR stia giovando a questa Juve quest'anno. O mi sbaglio? Ma no, guarda, io il discorso VAR francamente farei a meno di tirarlo fuori. Poi per ne abbiamo parlato, come hai sentito, l'altro, secondo me il terzo gol della Sampdoria era da annullare. Mi dicono tecnici che in realtà si tratta di valutazione, quindi su quello non ci deve essere l'intervento del VAR. C'è un rigore, ma non è il fallo di mano, che secondo me non c'è. Potrebbe essere serenamente una spinta su Mandzukic, per cui gli errori ci sono. A me pare che se la Juventus incassa gol in 12 delle 18 partite giocate fin qui, il problema non è il VAR, è qualcosa che richiama a un momento di passaggio tecnico che probabilmente Allegri non è ancora stato capace di interpretare al meglio. Poi io per primo dico attenzione a parlare di ciclo finito, ma ci sono alcuni elementi di cui si deve assolutamente parlare. Il traffico, poi mercoledì c'è una grandissima giornata, una grandissima serata di Champions, c'è un duello Italia-Spagna, vediamo se riusciamo a prenderci la rivincita, e ne parliamo dopo il traffico. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, dicevamo, mercoledì sera ci vogliamo prendere la rivincita sugli spagnoli. Juventus, Barcellona, Atletico Madrid, Roma. Filippo Maria Ricci, ciao. Ciao Phil. Buon pomeriggio. Che si dice a Barcellona dopo che hanno visto la Juve oggi? Beh, no, è troppo fresca per avere reazioni. Si stanno ancora stropicciando gli occhi, cioè vogliono capire. Però posso anche dire, diciamo, cosa si dice a Barcellona dopo aver visto il Barcellona ieri, no? Che ha faticato con Leganés e poi ha vinto 3-0 grazie al portiere e al centravanti. È un Barcellona strano, la Juventus ha la sua, secondo me, ha delle possibilità, a Barcellona basta un punto. C'è una cosa interessante, perché domenica vanno a Valencia, hanno Piqué squalificato a Valencia, adesso faranno di corso per il quinto giallo, il sostituto dovrebbe essere Vermaelen, che non gioca mai, e quindi si ipotizza un suo impiego per esempio a Torino. Ah, per farlo provare, per fargli rompere il fiato. Sì. Esatto, non gioca mai, quindi, e secondo me loro sperano che poi il quinto giallo a Piqué sia tolto e possa giocare, però questo è uno scenario, diciamo, in più da tenere presente. Beh, intanto aver vinto la Liga a metà novembre non è male. No, è un Barcellona molto, molto diverso, più effettivo, più calmo rispetto a quello schizofrenico di Luis Enrique, per cui però la Juventus ha, secondo me, si può giocare le sue carte. La Roma. Sì, eh? No, la Roma secondo me se le gioca e deve andare a Madrid con l'obiettivo di vincere, a mio parere. Assolutamente. Anche perché l'Atletico Madrid così sportivamente depresso non è stato mai negli ultimi anni. Però Giovanni diceva aver vinto la Liga a metà novembre. No, sì, 10 punti. Ho letto oggi. L'ottimo corrispondente della Gazzetta dello Sport dalla Spagna scrive che mai nessuno in Spagna è risalito da meno 10. Sì, c'è il Valencia a meno 4. Confermi? Sì, diretto. No, sì, per sì. Carità. No, infatti adesso vediamo cosa succede domenica a Valencia, però è chiaro che rispetto all'Atletico e al Real Madrid il meno 10 non l'ha mai recuperato nessuno, per cui ieri quelli del Madrid si divertivano dicendo ah certo, nessuno aveva mai vinto due Champions di fila, no? Dice noi l'abbiamo fatto, però è un pochino diverso secondo me, insomma il Madrid è una squadra in difficoltà e l'Atletico lo è ancora di più, inguardabile l'Atletico Madrid in questo momento, veramente inguardabile. E chiaro, è imbattuto in Liga, però ha pareggiato 7 delle ultime 9 partite. Pareggiare si sa, non serve a niente, no? Meglio perdere ogni tanto e vincere di più. Si è smarrito lo spirito del ciolismo. Sì, perché sai, se tu fai tutto punti tutto sul cuore, la forza, quando si rallentano i battiti resta molto poco. I cicli finiscono, vale, è un discorso che facciamo da tutto il pomeriggio, da diversi giorni. I cicli finiscono sia per le nazionali, è capitato anche alla Spagna. sta capitando all'Italia, i cicli possono finire per la Juventus, è normale. Sì, poi la Spagna, la Spagna è stata brava a riciclarsi, no? Per usare, per riciclare anche la parola, no? del ciclo, rapidamente, no? Ha avuto il suo passaggio a vuoto, adesso è tornata una squadra competitiva. L'Atletico poi non è che lo puoi, è ancora lì, certo, in Liga è imbattuto, però in Champions, salvo sorprese, andrà fuori, perché può anche vincere le due partite, ma se il Karabakh non fa un punto, l'Atletico è fuori comunque. Ma se esce, poi è il favorito numero uno per l'Europa League. Dell'Europa League, quello d'accordo. E che poi potrebbe anche andare bene, per loro certo. È un piccolo ridimensionamento, però è chiaro, hai fatto anche due finali di Champions, no, in tre anni, però a loro potrebbe ancora andare. Però la Roma ha il dovere di approfittare, la Roma è una forma strepitosa, è una squadra in crescita, che ha bisogno anche di questo, di queste vittorie, di queste situazioni, per cui io spero che facciano una grande partita qui a Luanda. E lo stesso vale per la Juve, perché insomma in Europa dobbiamo affermarci, dobbiamo andare avanti, soprattutto dopo questa batosta così con la nazionale, abbiamo bisogno di lasciare il segno da qualche parte, no? Sì, speriamo, perché e questo è il turno decisivo. Tra l'altro io allargo, adesso il tempo è finito, ma ci sarà tempo in settimana di parlarne, allargo anche al Napoli, che secondo me è davanti a un bivio, ha due partite, non ha il destino nelle sue mani. Tra l'altro segnalo che secondo me il tema è di che cosa fa Guardiola nell'ultimo turno quando è già qualificato. Mettetevi le mani nei capelli se siete tifosi del Napoli, perché solitamente lascia a casa tutti, se ne frega alla faccia. Sì, però una cosa è vero, questo per me giocherà con la seconda squadra, anche la terza, ho visto alcune volte a Barcellona, però sempre provando a vincere. Sì. Gli interpreti non sono gli stessi, ma lo spirito sì, però lasciandoci questo... anche le penne ogni tanto, e sì, se qualcun altro se la sta giocando non è il massimo. No, bisogna andare, però questo l'hanno fatto sempre tutti, ma è presto, sì. Con tanta esigenza, con tanto, col calendario tanto intasato, è presto per aprire questa polemica, ma se il Napoli batte lo Shakhtar a questo giro martedì, poi secondo me bisogna anche parlarne. Va bene, ci dobbiamo fermare, grazie. Ciao, Filippo, ragazzi. Ciao. Grazie a Filippo Maria Ricci, io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, come sempre, poi in regia Roberta Frisani e Paolo Corleoni. Tutti Convocati Weekend torna domenica regolarmente alle 17, mentre la seduta di Tutti Convocati è aggiornata domani dopo il GR delle 14. Ciao! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte! Saluti!